I'm Deborah Voigt. Welcome to today's performance of Maria Stuarda, Donizetti's historical opera about the fateful clash between two storied queens of English history. Maria Stuarda of the title, also known as Mary, Queen of Scots, and Elizabeth, the reigning English monarch who fears that the exiled Mary threatens her crown. The action takes place over a span of more than a decade in the late 1500s. For this afternoon, the Met has been transformed into an operatic version of a stark and dramatic Elizabethan stage. Imagine the historic Globe Theater housed inside the Met for the day. It is on this stage that the passions, jealousies, and vengeful actions of Elizabeth, brilliantly played by the young South African soprano Elza Vandenhever, will be revealed. And it is also on this stage that the mostly pure of heart but imprisoned Mary, played with such virtuosity by the American mezzo-soprano Joyce DiDonato, will defend her honor and meet her fate. Opera is always bigger than life. And with this story and its intensely focused production directed by Sir David McVicar and designed by John McFarlane, Scotsmen themselves, you are in for a theatrical and operatic tour de force. So sit back while we transport you to the 16th century court of the young Queen Elizabeth I. Here now is part one of Maria Stuarda, conducted by Maestro Maurizio Benigni. Thank you. terra e della Francia. Thank you. questo lontano, tanta gioia comune. Eccola! Conte, ho rio di te che idea. Mi perdona, se a tuoi cenni indugiai, ti imponi. Calamello mio di Francia l'inviato al prece suo orgieto messaggio a dir che già di mene l'invito a cento e non si cance il viso ma che certo che m'offre ricusare ancor blusso che libera sonio, prendilo, incarnato, ti obbedisco. Oh! sua vita e d'aita te cercò. Altra mondo è la sua vita e d'aita te cercò.

Thank you. Thank you. Tutti a Oh! aspetto dal saggio tema. Qual è il partenisciendo sacrificio? Lo vedi? Discosta ai cacciatori, da quant'è qui vieni? E troppo ingombro di popolo e sentieri. Vedi, regina, come l'Anglia canona. Tu lo sai, qual capo ella ti chiede? E ti rammenta di dar conforto alla dolente vita d'una sorella. Io ti guidai la mano che di squallor la cinse al contento premier, può ridonarla. Io la borro e non fa che rammentarla. Vieni. Oh! so. Io mi si fila che ti rendi chi tu stai. Alma tua, quell'alma eterna, so please. At the end of the previous act, Queen Elizabeth became enraged and emphatically denied Mary's plea to be set free. When the next act begins, it is more than 10 years later, and Mary's fate is soon to be sealed. Here is the conclusion of Maria Stuarda. Pensi e parli e vive chi ti sprezzo, chi contro te raduna Europa tutta e la tua sacra vita minacciò tante volte. Thank you. anche così improvviso, agitato è il tuo pensiero. Non temer che sia diviso, mai da te l'onor primiero. Accenti proferiti e gli oltraggi non puniti, ogni mese in questi istanti ti vorrebbe venire. Segna il foglio che gli inianti che sapranno perdonar. Segna il foglio che i legnati sapranno perdonar, che sapranno perdonar, che sapranno perdonar. Segna il foglio che i legnanti che sapranno perdonar. Regina! questo incarco io vengo esecutor. E questo è il foglio che nei tuoi giorni omai l'ultimo segna. Così sacro ministro che ti guidi nel cammino di morte. Io lo ricuso, sarò qual fui, straniera voi di culto. Ancor superba e fiera. Sapetta di veterti via dell'ora di sangue. Ma sì, conforta togli quest'alma all'abbandono estrivo. Eppur con fermo aspetto quell'avviso feral da te fu accolto. Ma togli il cor, non mi leggesti in volto, mi tremava. E ciastel ebbe venirne spettator del tuo destino, la regina l'impone. Or infelice, a qual serbato fio, doloroso castigo. Concesse il Dio sollievo ai mali. Anna, tolgo giammai. Smarrito pensier. Già t'avvicini a secoli mortali, al ceppo reca or il tuo cor d'ogni terreno affetto. Thank you. Un'altra colpa piangere ancor ti resta. Ma quale? Unita e riattadita. Torci. Error fatale. Pensa ben che un Dio possa e fagli punitore che al suo sguardo anime gente falsa sconde, falsa sconde un falso dolore. Sul tuo sangue l'oscurata verità, l'oscurata verità. Questa affannosa vita andrai con versa in angelo al Dio consolator e nel più puro giubilo l'anima tua rapita. Scorderà ne palpiti t'hanno agitato il cor, t'hanno agitato il cor, t'hanno agitato, agitato. Oh. Thank you. che spende saranno per sempre al giorno. O voi piangete ancora, dico volete miei figli. Prima prece altiam amante. Elisabetta vuol che sia paga ogni tua brama. Da lei tanta pietà non risperai. Lieve favor ti chiedo, anno e mi passi al postorgo. Ella verrà. Si ho colto. C'è premiero altro ne ascolta. giunge il forte. Avanza, scostati, ovvide!